Odissea 2011. In viaggio verso il futuro. Di Maurizio Melis. Ho qui qualcosa per te. Tuo padre voleva che tu l'avessi quando raggiungevi l'età giusta, ma tuo zio non ne volle sapere. Che cos'è? È la spada laser di tuo padre. Questa è l'arma dei Cavalieri Jedi. Non è goffo, erratica come un fulminatore. È elegante, invece. Per tempi più civilizzati. Buonasera e benvenuti a Odissea 2011. Chi almeno una volta nella vita, lo abbiamo detto nella prima puntata, non ha sognato di fare tutto a fette con una spada laser? Una spada come quella che Obi-Wan Kenobi consegna a Duke Skywalker nella scena di Star Wars che abbiamo appena sentito. D'altronde sono numerosissimi i gadget che la fantascienza ci ha proposto, che inevitabilmente esercitano un'attrazione magnetica su di noi. Insomma, oggetti che tutti avremmo desiderato avere a disposizione almeno in una circostanza. Cosa dire, per esempio, del mantello dell'invisibilità, degli scudi deflettori o del tricorder, una sorta di laboratorio di chimica e fisica avanzatissimo che sta nel palmo di una mano, grazie al quale i protagonisti di Star Trek riescono a risolvere misteri scientifici di ogni tipo mentre esplorano un pianeta dopo l'altro. Ma quanti di questi oggetti sono davvero realizzabili? Beh, è quello che cercheremo di stabilire stasera. Abbiamo iniziato con la spada laser e allora proviamo a capirci qualcosa di più. E per farlo ci affidiamo a Michio Kaku, professore di fisica teorica alla City University di New York e anche divulgatore scientifico di grande successo negli Stati Uniti. Se volete costruire una spada laser, è lui decisamente l'uomo giusto. Le istruzioni per realizzarla, infatti, le ha affidate a un libro, Fisica dell'impossibile, che vi consiglio di leggere, anche a più di un documentario. Le abbiamo riassunte queste istruzioni per voi. Ascoltate. Supponete di riuscire a installare nel manico di una spada un laser molto potente, abbastanza potente da tagliare ogni materiale conosciuto. Esistono già oggi laser di questo tipo. Tuttavia, se anche ci riusciste, non avreste mai per le mani l'arma elegante che i fan di Star Wars desiderano. Un raggio laser, infatti, altro non è che un fascio di luce coerente, cioè che non si disperde allontanandosi dalla sorgente, come invece fa la luce di una lampadina. Tuttavia la luce, inclusa quella dei laser, non può essere in alcun modo solidificata, né può essere confinata in uno spazio ristretto. Una volta partito, il raggio laser viaggerà alla velocità della luce, allontanandosi da voi e dalla Terra a 300.000 km al secondo, tagliando o bucando tutto quello che si trova sul suo percorso, anche a migliaia di chilometri di distanza. Un'arma decisamente ingestibile. Insomma, se quella che volete è una spada di energia con cui dare vita a duelli come quello che sentite sullo sfondo, il laser, sappiatelo, non fa per voi. Ma prima di abbandonarvi alla delusione, aspettate un attimo, perché Michio Kaku non è neanche lui uno che si scoraggia facilmente e ha elaborato una soluzione alternativa che chiama in causa questa volta il plasma. Sentiamo. Il plasma è il quarto stato della materia. Si forma quando gli atomi di un gas si riscaldano a tal punto da perdere gli elettroni. In questo stato, che viene raggiunto comunemente nelle lampade al neon, il gas diventa luminescente e può raggiungere temperature di migliaia di gradi. Oggetti chiamati torce al plasma vengono usati da tempo nell'industria per tagliare e bucare metalli anche molto spessi. A differenza del laser, il plasma può essere contenuto e appunto plasmato a piacimento grazie a un campo magnetico come quello generato da una calamita. Ecco allora che con un plasma rovente e un campo magnetico della forma opportuna potreste realizzare una vera e propria lama fiammeggiante, ma non una spada. Anche il plasma, infatti, non è solido. Per ottenere una vera spada, immaginate allora di installare nel manico un tubo telescopico, bucherellato, fatto di uno speciale materiale ceramico che resiste a temperature altissime senza fondersi. Il plasma rovente potrebbe uscire dai buchi presenti sulla superficie del tubo, mentre il campo magnetico ne eviterebbe la dispersione. Ed ecco realizzata la vostra spada di energia. Resta solo un problema: la fonte di energia. Un oggetto simile, infatti, richiederebbe la potenza di una piccola centrale elettrica. Oggi non abbiamo tecnologie in grado di immagazzinare tanta energia nel piccolo volume occupato dall'impugnatura di una spada, ma grazie alle nanotecnologie e in particolare ai nanotubi di carbonio, un tale progresso potrebbe essere possibile entro qualche decennio. Insomma, qualcosa di molto simile a una spada laser potrebbe essere costruito a patto di avere a disposizione una fonte di energia o una super batteria in grado di fornire alla spada l'energia necessaria per funzionare. Lo stesso problema, d'altra parte, si pone per molti degli oggetti che la fantascienza ci ha propinato, dalle pistole a raggi all'armatura di Iron Man. D'altronde, le nanotecnologie che sono state immaginate, ipotizzate per la prima volta nel 1959 dal fisico Richard Feynman, da alcuni anni sono uscite dall'immaginario per entrare nella realtà. Siamo solo agli inizi, questo va detto, ma già oggi sono numerosissime le applicazioni che è possibile intravedere grazie allo sviluppo di questa scienza che sta a metà tra fisica e chimica. E tra queste applicazioni, molti degli oggetti di culto, per così dire, che la fantascienza ci ha proposto. Allora, Dario Narducci, che è professore di chimica fisica all'Università di Bicocca ed esperto di nanotecnologie, ci spiega brevemente che cosa sono. Il termine nanotecnologia sta a indicare in maniera abbastanza estensiva tutte quelle tecnologie, per l'appunto, che operano su una scala che è inferiore al micron. Il micron è un millesimo di millimetro, e quindi entrano in una regione che tipicamente è compresa fra un milionesimo e un millesimo di millimetro, che è quella dei nanometri. L'idea di fondo è che quando io voglio fare una cosa molto piccola posso partire da un oggetto grande e ridurne le dimensioni, l'approccio cosiddetto top down, oppure posso partire da oggetti ancora più piccoli a metterli assieme e ottenere oggetti di dimensione nanometrica. Il primo approccio è il più intuitivo. Io parto da tecnologie che sono quelle che esistono ormai da decine di anni, che sono quelle tipiche per esempio della microelettronica ma anche della micromeccanica, e posso spingere sempre più il piede sull'acceleratore in maniera tale da ridurre le dimensioni di ciò che ottengo. Questo è un approccio in cui sostanzialmente io estendo e forzo le tecnologie attuali per ottenere delle dimensioni più piccole. L'approccio opposto sembra molto controintuitivo, perché la sensazione che uno può avere è che fare degli oggetti piccoli a partire da cose ancora più piccole sia un'idea folle, ma il punto di fondo è che ovviamente gli oggetti più piccoli noi li abbiamo da sempre, da madre natura, e che sono atomi e molecole. Quindi quello che posso fare è di pensare di trovare le strategie che consentano ad atomi e a molecole di organizzarsi in una maniera in qualche modo controllata e a formare degli oggetti di dimensioni più ampie. Questo è il cosiddetto approccio bottom-up, quindi dal più piccolo all'un po' più grande. Ma perché le nanotecnologie sono così potenti? Insomma, è difficile spiegarlo in modo semplice, ma ciò che si è capito fondamentalmente è che i materiali, anche comuni, se presi in quantitativi piccolissimi, poche molecole o atomi, esibiscono comportamenti del tutto inaspettati. Per due motivi principalmente, su questo gli scienziati sono d'accordo. Il primo è che quando scendiamo a dimensioni nanometriche entriamo nel mondo della meccanica quantistica, in cui valgono regole molto diverse da quelle del mondo macroscopico in cui viviamo, di cui abbiamo esperienza. La seconda ragione è che oggetti molto piccoli hanno superfici enormi rispetto al loro volume e quindi sono molto più reattivi nei confronti dell'ambiente. Un esempio di come le proprietà della materia mutano a scala molto piccola ce lo fornisce ancora una volta Dario Narducci. Ascoltiamo. Un esempio classico che si fa in questi casi è quello dell'acqua, acqua e ghiaccio. La temperatura di fusione del ghiaccio, lo sanno tutti quanti, è di 0 gradi Celsius a pressione atmosferica. E tutti quanti sappiamo dalle scuole che ovviamente non ha nessuna rilevanza la dimensione del pezzo di ghiaccio che vogliamo fondere, purché la pressione sia sempre quella di un'atmosfera, fonde sempre a 0 gradi, che sia un iceberg o che sia il cubetto di ghiaccio del frigorifero. E questo rimane vero anche se io, invece che un cubetto di ghiaccio, ne prendo uno molto piccolo di un millimetro cubo, oppure se vado ancora su una scala più piccola ancora, che è quella di un micron cubo, un cubetto di ghiaccio molto molto piccolo, ma è ancora un cubetto di ghiaccio che fonde a 0 gradi. Quando arrivo sulla scala nanometrica le cose cambiano e il ghiaccio fonde a una temperatura più elevata. Quindi questa proprietà, che è una tipica proprietà, come si usa dire, intensiva, cioè caratteristica del materiale, non dell'oggetto, improvvisamente comincia a dipendere dalle dimensioni. E questo è un esempio dei tanti che si potrebbero fare del fatto che sulla scala nanometrica le regole del gioco, per l'appunto la fisica che c'è dietro, quello che controlla i sistemi, in questo caso la termodinamica, cambia. Bene, e ora continuiamo col secondo oggetto cult di oggi. Sentite qui. State morendo dalla voglia di sapere chi sono, vero? Benissimo, adesso ve lo farò vedere. Guardate, si è completamente dissolto. Adesso siete contenti, maledetti idioti. È facile fare questo se siete svegli. Basta solo mischiare un po' di sostanze chimiche e carne, sangue e ossa svaniscono. Iniettate un po' di questa roba nel braccio tutti i giorni per un mese. Un uomo invisibile può dominare il mondo. Nessuno lo vede quando arriva e quando se ne va. Può ascoltare qualsiasi segreto. Può rubare, distruggere, uccidere. Edizione straordinaria, tutto sull'uomo invisibile. Bentornati a Odissea 2011, Maurizio Melis al microfono. Ve lo dico subito, ormoni che possano renderci invisibili, come in questa sequenza di Invisible Man, serie televisiva di fantascienza andata in onda per la prima volta nel 2000 negli USA, non esistono. Ma c'è una nuova classe di materiali, i metamateriali, che potrebbero renderla presto possibile. Parliamo di materiali artificiali che vengono creati cesellando finemente la materia in geometrie complesse a scala estremamente piccola. Ed ecco che tornano le nanotecnologie. Per capire di che cosa stiamo parlando possiamo fare un esempio. Tutti sapete che se avete un sottile fascio di luce e questo colpisce un pezzo di vetro, per esempio un prisma, questo fascio di luce viene deviato. Ora immaginate di avere un materiale grazie al quale siete in grado di far serpeggiare la luce in tutte le direzioni. Ecco che cos'è un metamateriale. Come questo renda possibile raggiungere questo traguardo dell'invisibilità, lo abbiamo chiesto a Filiberto Bilotti, docente di metamateriali dell'Università degli Studi Roma 3. Ascoltiamo. Ci sono due approcci all'invisibilità che si basano su metamateriali. Il primo è basato sulla trasformazione di coordinate, cioè si fanno variare le caratteristiche dello spazio che circonda il nostro oggetto che vogliamo, insomma, che vogliamo nascondere, in maniera tale che la luce gli giri intorno senza interagire assolutamente con l'oggetto. E questo è un approccio, se vogliamo, molto simile all'effetto del miraggio. Sostanzialmente ciò che succede nel miraggio è che non vediamo più la sabbia, ma l'immagine della sabbia è sostituita dall'immagine del cielo. Il secondo, diciamo, è un approccio che prende il nome di cancellazione della luce diffusa. Fondamentalmente quello che succede è che se noi abbiamo un determinato oggetto che vogliamo nascondere, incide la luce su questo oggetto e questo oggetto diffonderà la luce stessa. Dopodiché, se noi andiamo a rivestire l'oggetto con un mantello che genera, quando interagisce con lo stesso fascio luminoso, una luce diffusa che è di stessa ampiezza ma di segno opposto confrontata con quella generata dall'oggetto, allora è possibile cancellare completamente la diffusione della luce da parte dell'oggetto e renderlo di fatto invisibile. Sono davvero numerosi ormai gruppi di ricerca in tutto il mondo che stanno lavorando su questo tema dell'invisibilità. Per ora si riescono a rendere invisibili solo oggetti estremamente piccoli e solo rispetto a una lunghezza d'onda alla volta. In pratica questo significa che potreste realizzare un mantello che vi rende invisibili se siete illuminati di luce rossa, ma non se siete illuminati da una luce blu, oppure dal fascio di microonde di un radar. Tuttavia, sovrapponendo tanti mantelli, ognuno capace di nascondervi a una lunghezza d'onda diversa, nulla vieta di realizzare una vera e propria invisibilità. Ma le applicazioni dei metamateriali non finiscono qui. La loro straordinaria capacità di manipolare onde di ogni tipo permette di realizzare anche mantelli del silenzio, come quello annunciato pochi giorni fa dalla Duke University, che evidentemente vi nascondono dalle onde sonore, mentre pensate che lo stesso principio, applicato questa volta su grande scala, può essere usato per proteggere con delle barriere speciali intere isole dalle onde di tsunami, facendo in modo che queste onde aggirino le isole senza colpirle e senza danneggiarle. E ora proviamo a capire se si può realizzare un altro oggetto cult della fantascienza, inventato dalla fervida immaginazione di Gene Roddenberry, creatore di Star Trek, di cui stiamo per sentire uno stralcio, tratto dalla prima serie, quella del 1966. Nessuna di queste opere è mai stata catalogata o riprodotta. Sono pezzi sconosciuti. Tutti apparentemente autentici fino all'ultima pennellata e al minimo dettaglio. Se fossero tutti di Leonardo, non avrebbero prezzo. Perché sono dei falsi? Molto strano. Un uomo con tutte le possibilità di Flint e il suo indubbio gusto non appenderebbe mai dei falsi. Eppure il mio tricorder indica che la tela, i materiali, i colori usati sono di origine contemporanea. Potrebbe trattarsi di falsi o anche di un'illusione. Potrebbe anche essere una teoria, Jim, simili alla realtà. Spack, alla prima occasione analizzi col tricorder il nostro ospite e veda se è umano. Confesso che non so quanti di voi ci terrebbero davvero ad averlo tra le mani, ma io da ragazzo avrei dato qualunque cosa per un tricord. Per quelli di voi che non lo conoscono, è una specie di laboratorio sofisticatissimo che sta nel palmo di una mano. Col tricorder, Spock, il capitano Kirk e gli altri protagonisti della serie riescono ad analizzare qualunque tipo di oggetto, persona oppure anche forma di energia, cosa che spesso permette loro di tirarsi fuori dai guai. E ancora una volta, metamateriali e nanotecnologie ci forniscono gli strumenti, almeno in teorici, diciamo, per realizzare un vero e proprio laboratorio tascabile. Laboratorio per il quale evidentemente servono super lenti, nanoantenne e anche nasi elettronici estremamente sofisticati. Cominciamo dalle super lenti, parola a Filiberto Bilotti. Essenzialmente la risoluzione delle lenti standard è limitata dalla diffrazione e quindi non si riescono ad ottenere immagini con dettagli che sono più piccoli confrontati con la lunghezza d'onda della luce che viene usata per formare l'immagine stessa. Le lenti che si basano su metamateriali invece riescono a risolvere dettagli che sono anche molto più piccoli confrontati con la lunghezza d'onda perché è possibile superare fondamentalmente il limite della diffrazione. Cioè le onde evanescenti che trasportano il contributo associati a dettagli fini dell'oggetto vengono focalizzate allo stesso modo delle onde che viaggiano. Insomma, provate a immaginare una lente grande come una capocchia di spillo ma capace di una risoluzione paragonabile a quella del telescopio da 5 metri di diametro del Monte Palomar. E non solo, perché la stessa proprietà dei metamateriali che rende possibili le superlenti rende possibili anche nanoantenne capaci di captare ogni emissione radio, anche quelle che normalmente richiedono antenne lunghe vari metri. Ancora una volta ce ne parla Filiberto Bilotti. Come si è detto già prima, nel caso della super lente si riesce a superare il limite della diffrazione, quindi la dimensione del dispositivo non è più dettata dalla lunghezza d'onda d'impiego, ma invece è una funzione soltanto delle caratteristiche del metamateriale. Quindi può essere realizzato un dispositivo, un'antenna, una nanoantenna che sia anche molto piccola confrontata con la lunghezza d'onda. Insomma, grazie ai metamateriali in futuro saremo in grado di realizzare sensori piccolissimi e potentissimi e possiamo immaginare che realisticamente finiranno tra i tanti accessori di serie che ormai troviamo su quasi tutti gli smartphone. C'è tutto un universo però che resta ancora da analizzare se vogliamo veramente costruire il tricorder, è il mondo della chimica. Ebbene, dovete sapere che proprio la Nokia, quindi una delle grandi